Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, devo dire, si chiude oggi una settimana molto, molto intensa sul piano della politica interna, della politica internazionale, dell'economia internazionale vista dagli Stati Uniti, vista dall'osservatorio americano. Beh, ricorderete, siamo partiti all'inizio della settimana con la Mogherini alle Nazioni Unite, con la decisione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU di affrontare la questione della migrazione europea. Siamo passati poi alla questione economica internazionale, all'apertura dei commerci. Prima una battuta d'arresto per Barack Obama, che ha perso un voto al Senato che poteva dargli questo potere negoziale speciale per fare andare avanti l'accordo che avrebbe liberalizzato i commerci sul Pacifico. Questo succedeva martedì. Poi invece ieri, cambiamento improvviso, i repubblicani con Obama hanno fatto delle concessioni e la mozione è passata, e dunque secondo me a questo punto si andrà avanti. Poi c'è stato il viaggio di John Kerry in Russia per parlare di Siria. Infine ieri, il vertice, quello che doveva essere il vertice importante tra Stati Uniti e paesi del Golfo, che invece secondo me si è chiuso, come dire, in un tono minore. I updated our Gulf partners on the negotiations toward a comprehensive deal to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. Ecco, Obama qui dice di aver avuto l'adesione dei paesi del Golfo all'accordo che gli Stati Uniti insieme agli altri paesi del P5+1 stanno negoziando con l'Iran per cercare di contenere gli sviluppi nucleari iraniani. L'accordo da parte dei paesi del Golfo significa che cosa? Beh, ha detto Barack Obama, certo non abbiamo nulla di scritto, anche perché questo accordo non l'abbiamo raggiunto, però si sono resi conto e sono dalla nostra parte che se andremo in quella direzione questo sarà nell'interesse di tutti. Da un punto di vista più generale, il presidente ha illustrato quali sono gli accordi che sono stati raggiunti in questo vertice a Camp David. Sentiamo. First, I am reaffirming our ironclad commitment to the security of our Gulf partners. As we've declared in our joint statement, the United States is prepared to work jointly with GCC member states to deter and confront an external threat to any GCC state's territorial integrity that is inconsistent with the UN Charter. Ecco di nuovo il presidente americano nella conferenza stampa che dice che con la regione del Golfo gli Stati Uniti hanno avuto accordi di sicurezza vecchi ormai di 70 anni, sono stati poi portati in avanti da successive generazioni di presidenti americani, incluso io stesso, dice, e illustra i punti più importanti di questo accordo. Primo, intanto c'è un accordo di sicurezza per scoraggiare chi possa avere l'idea di portare dei conflitti esterni nei confronti di questi paesi, conflitti che potrebbero avvenire contro le regole della Carta dell'ONU. Secondo, ci sarà un aumento della cooperazione per la sicurezza, contro il terrorismo, per l'addestramento, per il controllo dei mari. Terzo, aiuteremo questi paesi ad avere delle strutture difensive contro possibili attacchi di missili balistici. Quarto, lavoreremo insieme per difendere la sovranità e l'ordine precostituito nella regione. Quinto, l'accordo con l'Iran sul nucleare, che era quello poi con cui ho aperto la trasmissione. In realtà la mia impressione è che questo incontro non sia andato come forse il presidente voleva. Ecco, avete sentito qui la voce di Re Salman di Arabia Saudita. Devo dire, ci sono due aspetti simbolici che possono dare la misura di quanto secondo me siano stati difficili i rapporti di Barack Obama con questi antichi alleati del Golfo Persico. Intanto, dei sei leader che avrebbero dovuto partecipare a questo vertice di Camp David di ieri, ne sono venuti soltanto due. E in loro vece gli altri hanno mandato dei rappresentanti di alto livello, dei ministri, dei principi ereditari, ma comunque non il numero uno. Alcuni di questi leader arabi hanno cercato di salvare le apparenze giustificandosi con delle malattie, non stavano troppo bene. Altri, proprio Re Salman di Arabia Saudita, hanno semplicemente detto, nel caso di Salman, di avere affari di Stato più importanti di cui occuparsi. Tra l'altro Salman ha fatto questo annuncio, o meglio i suoi funzionari hanno fatto questo annuncio, subito dopo che la Casa Bianca aveva annunciato che invece avrebbe partecipato ai lavori. Ma secondo me l'esempio più eclatante di tutti è quello di Re Hamadi bin Isa Al Khalifa del Bahrain, il quale non ha cercato scuse, ha semplicemente detto di aver preferito andare a un concorso di cavalli a Palazzo Windsor su invito della regina Elisabetta. Well, good morning. I'm David Sanger from the New York Times, and it's great to see such a good-sized crowd out here. We've just about filled the room, which I attribute either to our panel up here or to the urgency of the issue or both. Ecco, David Sanger, grande giornalista del New York Times, vi ho fatto ascoltare la sua voce perché, come dire, se il vertice di ieri è servito a qualcosa che ha chiarito che al di là delle dichiarazioni formali, quelle di cui vi ho dato notizia in apertura, vi è ancora profondo risentimento nei paesi del Golfo per come l'amministrazione Obama ha gestito il negoziato sul nucleare con l'Iran. Ecco, questa freddezza, secondo me, si traduce in opportunità per altri paesi, per l'Italia per esempio. Il nostro presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha fatto una visita lampo ad Abu Dhabi e Sanger, tuttavia sul piano politico, affronta un tema ancora più delicato, cioè dà notizia che l'Arabia Saudita di fatto ha confermato che, visto che l'Iran potrà andare avanti e tenere degli acceleratori per l'arricchimento dell'uranio, anche lei andrà avanti con dei programmi nucleari, investirà e si vorrà mettere in una posizione analoga a quella dell'Iran. Ecco, questa è una notizia preoccupante, perché di fatto questo accordo a cui ha lavorato Barack Obama con Teheran di fatto non produce una vera denuclearizzazione della regione, se poi anche l'Arabia Saudita si mette in quella direzione. Tra l'altro, fonti che ho raccolto direttamente mi danno per certo che l'Arabia Saudita ha finanziato il Pakistan quando il Pakistan cercava di fare a sua volta ricerche per costruire una bomba atomica e per migliorare il suo controllo della ricerca nucleare, e finanziandola l'Arabia Saudita si sarebbe garantita la costruzione di una bomba atomica. Come dire, il Pakistan ha già pronta per la consegna, quando la vorrà, una bomba atomica per l'Arabia Saudita. Ecco, una notizia, devo dire, che alla fine di questa settimana ci dà la misura di quanto fragile e difficile sia l'ordine internazionale e di quanto ci sia bisogno di cercare di stabilizzarlo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, Bruce Springsteen. Ebbene, l'album The Rising, dedicato a 9/11, parla delle differenze tra Occidente e Oriente. Dunque, considerando l'atmosfera così un po' difficile di questo vertice di Camp David fra paesi del Golfo e America, di Bruce Springsteen, Paradise. Runs too black. I take school books from your pack. Plastics and wire in your keys. The breath of eternity on your lips. In the crowded marketplace. I drift from face to face. I hold my breath and close my eyes. I hold my breath and close my eyes. And I wait for paradise. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento al lunedì. Goodbye and get going! Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.